in primo piano. Mercoledì 18 maggio, tra i quotidiani si distingue solo, per aprire su questo tema delle amministrative, il dopo voto, il Sole 24 Ore, che apre su Parmalat, che sfida Lactalis entro l'assemblea la decisione sull'ostilità dell'offerta, è il contrattacco di Parmalat sull'OPA dei francesi. E poi una rapida carrellata ai titoli dei grandi quotidiani generalisti. Per il Corriere, Berlusconi, il governo non è a rischio. La Stampa, Berlusconi, il governo resta saldo. Per Repubblica, Milano, l'ultimatum di Bossi. Il Messaggero, Berlusconi, Lega, alta tensione. Per il Fatto Quotidiano, disfatta ad personam, cioè sarebbe una disfatta di Berlusconi. Per Libero, Silvio non è morto, rialzati e cammina. Il Giornale, la verità sul caso Milano. Per l'Unità, anatomia di una vittoria. Vabbè, questi, insomma, le varie aperture, come detto, si concentrano sul tema che è anche quello del nostro sondaggio, cioè la tenuta del governo. Vedremo dopo la pubblicità e il meteo. Intanto voglio partire da due segnalazioni. La prima la troviamo sul Giornale, a pagina 21. Per la verità riprende un articolo uscito ieri sul Giornale di Sicilia. Deve accudire i figli, mafioso scarcerato. È una decisione, racconta Nino Materi, che inizia il pezzo scrivendo i figli soppiezze core, è una decisione del GIP siciliano, di un GIP siciliano che riguarda Arcabascio Alessandro, 37 anni, sospetto di mafia in carcere, al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari con questa motivazione: deve accudire i figli. Ma non ha una moglie? Beh sì, la moglie fa però la maestra e la mattina è impegnata a scuola. Vabbè, ma non c'è un asilo nido dove portare i bambini? No. Vabbè, ma non c'è un parente a cui affidare i figlioletti? No. Vabbè, ma una babysitter? No. La persona, gli Arcabascio, non hanno soldi da sprecare con una babysitter. E allora ecco che il GIP ha dato gli arresti domiciliari con questa motivazione. Deve accudire i figli, avendo l'opportunità di prendersi cura dei propri bimbi, che non rimarranno più soli soletti visto che hanno meno di 3 anni. Deve accudire i figli, mafioso scarcerato. Beh, il titolo è un po' ingannevole, non è stato scarcerato, gli sono stati dati gli arresti domiciliari, che è una forma di detenzione. Però certo, la decisione fa molto discutere e fa scalpore, l'ha trovata a pagina 21 del Giornale. E poi le 10 regole, le volete? Le 10 regole messe a punto dall'associazione GAP, Global Action Act, e le trovate sul Corriere della Sera, ma sono state rilanciate anche dal Wall Street Journal. 10 regole dell'ufficio ecologico, così oggi andate in ufficio e magari vi comportate in modo ecologico. Per esempio, non so se c'è tempo per tutte e 10, stampate in double face sulla carta fronte e retro quando dovete stampare un documento non importante. La nostra Elisabetta Fusconi in redazione è fanatica di questa cosa. Basta i bicchieri di plastica, portatevi il bicchiere di vetro a casa. Rinunciate all'ascensore, sempre che non lavoriate al 15° piano, o magari al 2° o 3° piano, basta ascensore. Mettete piante, fiori, anche sui tetti. Non stampate le mail inutili e buttatele nel cestino, se sono inutili non stampatele. Poi ancora mettete del terriccio sulla scrivania, questa non l'ho capita bene, del compost improprio, basta un vaso e un po' di terriccio, eccetera. Queste sono le 10 regole, alcune delle 10 regole, non le ho lette tutte, 6 o 7, rinunciate all'ascensore, no bicchiere di plastica, il terriccio sulla scrivania, l'azienda promuove una settimana verde con corsi e iniziative concrete. Poi qualcuno dice, fate, care aziende, la programmazione dello spegnimento delle macchinette del caffè, quando non servono. Oppure fate come, dice Legambiente, come Banca Intesa, che a un certo punto fa spegnere in automatico tutti i computer. Questo per risparmiare energia. Le 10 regole le trovate sul Corriere, a pagina 41, per l'ufficio ecologico. Ci fermiamo per la pubblicità. Alle 7:36 minuti, eccoci di nuovo qua. Allora, la domanda che ci si pone dopo le amministrative, ce la poniamo anche noi, ve la poniamo nel nostro sondaggio, è proprio questa. Secondo voi il governo è a rischio? Berlusconi dice assolutamente di no, il governo non è a rischio, mentre Bersani dall'opposizione dice sono sicuro, il governo non arriva al 2013. Su questo si interrogano anche un po' i vari giornali, anche il Foglio per esempio, in prima pagina, reggerà il governo fino al 2013. 2013, tra facce tirate si cerca la risposta. Questa è l'analisi politica di Salvatore Merlo. Reggerà il governo? No, perché l'indebolimento registrato in questa tornata di elezioni descrive un declino forse inarrestabile. Sì, reggerà, perché al governo Berlusconi non c'è ancora un'alternativa. Ecco, secondo Salvatore Merlo, la sconfitta si può leggere nelle facce tirate di Denis Verdini, Ignazio La Russa, che dicono, attraverso parole temerarie, secondo Merlo, queste elezioni sono state un pareggio. La sconfitta è tutta nell'assenza incrociata di Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, che si negano alle telecamere ma pure si telefonano per sodalizzare tra loro, solidarizzare, e si accordano per parlare a quattro occhi. Forse oggi si immergono in lunghissime riunioni con i rispettivi stati maggiori. Effettivamente, sia da Bossi da Berlusconi, zero parole ufficiali. Certo, quello che trapela sono sempre dunque i retroscena, quello che i giornali scrivono, avrebbero detto o starebbero dicendo in riunioni ai loro collaboratori più stretti. E allora eccoli qua i retroscena per il Corriere: i sospetti del Premier. I sospetti che vengono e affiorano anche in prima pagina del giornale, nel titolo del giornale, la verità sul caso Milano: nel centrodestra non tutti hanno messo il massimo impegno a favore della Moratti. I sospetti, soprattutto, tutti i giornali fanno convergere su chi? Su Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia, che si difende, peraltro oggi fa un'intervista al quotidiano, al Corriere. Ma tutti lo dicono, perché sarebbero mancati quei voti di, soprattutto legati al mondo di Comunione e Liberazione, che è un molto influente dal punto di vista anche elettorale, di corpo elettorale a Milano. E eccoli qua anche per Repubblica: i sospetti del senatore di Bossi su CL. Silvio si sta giocando tutto. E tra l'altro viene attribuita questa frase anche a Bossi: se perdiamo è difficile evitare la crisi di governo. Anche qui su Repubblica lo schiaffo della diserzione di CL, di Comunione e Liberazione. Ma anche per il giornale: Berlusconi, il Cavaliere adesso vuole più impegno da Formigoni e CL a Milano, la campagna sarà rimodulata. E tra l'altro viene definito all'insegna del gelo sul giornale il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Letizia Moratti. A proposito di Letizia Moratti, anche qui convergono un po' di accuse. Libero, per esempio, ripropone un articolo che Feltri, quando era direttore di Libero nel 2006, pubblicò quando la Moratti decise con l'amministrazione di Milano di fare l'EcoPass, cioè quel, diciamo, il centro di Milano a pagamento per i veicoli. E Libero ripropone a pagina 7 il titolo di allora, che fece scalpore, insomma, in prima pagina: scusa Moratti, ma sei scema? Oggi ripropone lo stesso articolo di Vittorio Feltri dicendo: abbiamo fatto un'amara profezia, Libero l'aveva detto, Letizia, ma sei scema? I primi dubbi già nel 2006, cioè, quindi Libero dice, tra l'altro scrive in un altro articolo: Letizia Moratti fa una cosa giusta, finalmente chiede scusa e dice scusatemi. Sta di fatto che, insomma, anche lì convergono un po' di accuse sulla stessa Letizia Moratti da parte dei giornali, certo vicini e schierati politicamente vicini al centrodestra. Tra l'altro si registra, tutti i giornali fanno registrare anche la base di Radio Padania, degli elettori, dunque gli ascoltatori di Radio Padania, gli elettori della Lega, che dicono alcuni basta, insomma, bisogna, è il momento di anche cambiare il governo, soprattutto se dovesse essere confermata la sconfitta con la vittoria di Pisapia a Milano. La Stampa la punta proprio su questa, pagina 3: Bossi tace, la base chiede invece una svolta, il capo per ora sceglie la prudenza, attendo che parli il Premier, il partito diviso tra falchi e colombe. Effettivamente c'è questo silenzio un po' surreale, no? Da due giorni, da una parte Berlusconi e dall'altra Bossi. Sotto accusa è anche Daniela Santanchè, autrice di quella campagna molto aggressiva che non ha pagato effettivamente a Milano per il centrodestra. Viene intervistata da Aldo Cazzullo oggi sul Corriere a pagina 8, dice: beh, certo, la sconfitta a Milano, o meglio la sconfitta al primo turno, è una cosa imprevista, ci aspettavamo il ballottaggio ma non Pisapia in testa. Ma trovo irresponsabile tirare la croce addosso a qualcuno o qualcosa. Ora c'è il ballottaggio e è un altro film. E poi, di fronte alle accuse, dire non avete esagerato con questa campagna aggressiva, La Santanchè risponde: se esiste il partito dei moderati è il PDL. Ho detto moderati ma non fessi. La radicalizzazione non nasce da Berlusconi, nasce dalla caccia all'uomo, dalle intercettazioni illegali, nasce dalla Boccassini. Ecco, appunto, non si pente di aver detto cose gravi sulla Boccassini. Rivendico tutte le mie battaglie politiche, risponde la Santanchè. Ripeto, siamo moderati, ma non fessi. Se ti attaccano devi trovare un modo per rispondere. Non sono un falco, ma neppure un piccione. Così la Santanchè. Mentre rispunta Romano Prodi, che fa un'intervista al Fatto Quotidiano, intervistato da Ferruccio Sansa. Dice, di Berlusconi, che scrive Ferruccio Sansa, non lo nomina mai. Dice: l'uomo sa suonare mille strumenti, non posso dire se siamo alla saturazione. Di certo il voto degli italiani, dei milanesi, dimostra che le esagerazioni anche ai berlusconiani non piacciono. E poi sul suo possibile ritorno, intanto no, sul Partito Democratico dice: non do una impressione sul Partito Democratico, sarebbe come rientrare nella vita politica e ho detto ripetutamente di voler restarne fuori. Pentito di non aver accettato di fare il sindaco a Bologna? A 72 anni, dai, non si fa il sindaco. Ci sono forze nuove, è giusto che si abbiano, che queste forze abbiano l'occasione di andare avanti. E poi dice: però, certo, ho seguito con passione i risultati elettorali del centrosinistra, soprattutto nella mia Bologna, vengo da lì, la mia vicinanza al PD è ovvia anche a Milano. Che bella notizia, non ho mai nascosto la mia stima per Giuliano Pisapia. Insomma, però, Prodi dice: assolutamente non torno, sto bene. Ma quando sono andato via a nessuno interessava, anzi dice la verità è che quando sono venuto via io erano tutti felici. Lo dice Prodi dicendo: non è questione di rancore o di rabbia, la prego di credermi, io continuo a lavorare e impegnarmi ma non ho intenzione di tornare. Questo Romano Prodi. C'è anche uno spassoso articolo, se volete, di Mattia Feltri sulla Stampa, pagina 15, che racconta i piccoli capolavori dei trombati. Beh, certo, c'è anche il caso del sindaco candidato di cui avevamo parlato ieri, che ha ottenuto 0 voti. Non so, un po' un mistero, forse lui non si è votato perché questo a Pizzone in provincia di Isernia, forse non si è votato perché non era residente lì, ma non aveva un amico, un parente, nessuno che lo ha votato. 0 voti questo candidato sindaco. Ma anche c'è Cinzia Cracchi, quella della vicenda dell'ex sindaco del Bono a Bologna, ha ottenuto 30 voti. Oppure Antonio Pennacchi, si sa, con il suo capolista Fabio Granata, con i suoi fascio comunisti a Latina, non hanno ottenuto neanche l'1%. Il capolista Fabio Granata ha ottenuto 50 voti, ironizza Mattia Feltri, meno dei 133 voti che servirono a Pennacchi per conquistare il premio Strega lo scorso anno. E poi Claudio Martelli era tornato, era candidato a Siena, capolista per una lista, ha ottenuto 83 voti. O Giusi Laganga, gran socialista dell'epoca, craxiano di ferro, ha ottenuto solo 765 preferenze e non ce la fa entrare nel Consiglio Comunale di Torino. Trombata, anche se usa questa parola. Milly Moratti, la cognata di Letizia Moratti, che però milita con Pisapia, anzi con un fare molto agguerrito nei confronti della sua cognata candidata a sindaco del centrodestra, Milly Moratti con la sua lista non è riuscita a entrare nel consiglio comunale, così come Altero Matteoli, che è ministro e anche sindaco di Orbetello, uscente, ma nella sua Orbetello il centrosinistra, quindi l'opposizione, ha vinto al primo turno. Insomma, ci sono anche storie di sconfitte politiche, le trovate a pagina 15 della Stampa. Ci fermiamo per il traffico. Allora, la vicenda di Dominique Strauss-Kahn ancora è presente sui giornali, il direttore del Fondo Monetario Internazionale che rimane in carcere a New York. Ora c'è l'ira delle ministre europee che dicono se ne vada. È successo al vertice di Bruxelles anche le polemiche con le donne in genere a difendere la donna presunta violentata da Strauss-Kahn, mentre gli uomini a parlare qualcuno anche di complotto. Sta di fatto che Strauss-Kahn è stato messo in una prigione che tutti i giornali descrivono come una prigione durissima, una sorta di Alcatraz al largo della costa est di New York. Si tratta di un carcere dove, fa sapere per esempio Guido Limpio sul Corriere della Sera pagina 22, ci sono un'ora d'aria di attività all'esterno in cella, 3 visite alla settimana, contatti coi legali, il cibo in carcere, in questo carcere è particolarmente di qualità pessima. Lunedì sera gli hanno servito purè di patate, hamburger di pollo, carote bollite, un paio di fette di pera. Radio Carcere dice che le condizioni anche di vita sono durissime, carcere sovraffollato, rapporti non amichevoli, può succedere di tutto. Questo è il carcere di Riker Island, dove è rinchiuso in una cella di 12 metri quadri Don Ministro Scanna, che ora si difende dicendo attraverso i suoi legali fu sesso consensuale. E questa sarebbe la difesa di Don Ministro Scanna, che dunque ammette che c'è stato, almeno attraverso i suoi legali, un rapporto sessuale. E tra l'altro il Corriere riporta alcune frasi del fratello della vittima: mia sorella è solo una vittima, ma che rapporto consensuale, è una cosa impossibile, questa gente può dire ciò che vuole, mia sorella non è quel tipo di persona, hanno parlato anche di un complotto, ma lei non sarebbe mai capace di una cosa del genere, è una grande lavoratrice, una buona musulmana venuta dall'Africa occidentale solo per lavorare. Tra l'altro il Corriere rilancia una foto di questa donna completamente avvolta da un lenzuolo che esce dal tribunale dopo aver deposto in tribunale. C'è anche il giallo su chi sia l'identità di questa donna. Su internet circolano e i giornali francesi hanno anche pubblicato dei primi piani sorridenti, ma non si capisce neanche come si chiami. Secondo qualcuno si chiama Ofelia Famotidina, secondo altri si chiama Nafissa Tu Diallo, gente che va su Facebook a cercare questi profili, a mettere le foto, ma forse non è lei. Di fatto per il momento non si sa nulla o nulla di certo dell'identità di questa immigrata, si sa solo che è immigrata, africana, dalla costa occidentale dell'Africa, 32enne, una buona musulmana, così la definisce il fratello. Non si sa molto di più, certo una storia intricatissima. Io voglio andare sul Sole 24 Ore, dove ci sono un paio di articoli che vi voglio segnalare. Come detto, oggi il Sole apre su Parmalat, che sfida Lactalis col CDA della Parmalat guidato da Enrico Bondi, che di fatto ha deciso e ha stabilito che per l'OPA i 2,6 offerti euro offerti da Lactalis sull'OPA non sono sufficienti. La valutazione ovviamente del Consiglio di Amministrazione sarà ora dettagliata in una nuova comunicazione che avverrà entro domenica prossima, dunque più dettagli. La storia che però vi voglio raccontare è una storia purtroppo tutta tipicamente italiana, sono due storie che per la verità il Sole mette a pagina 23. Una riguarda l'IKEA, il colosso dei mobili low cost svedese, che voleva aprire un punto vendita a Pisa, in provincia di Pisa, che da 6 anni attendeva il via libera dell'amministrazione locale di Vecchiano. E ora parla il consiglio d'amministratore, diciamo Lars Peterson, l'amministratore delegato dell'IKEA, che dice: abbiamo abbandonato questo progetto, ritardi e ostacoli, investire in Italia è una strada tutta in salita, noi non vogliamo favoritismi, non vogliamo scorciatoie, vogliamo rispettare le norme, ma non possiamo permetterci di tenere fermi così a lungo i soldi da investire in Italia, troppi enti sono coinvolti nelle decisioni, le pratiche passano da scrivania all'altra più volte, il procedimento si allunga senza alcuna ragione. E a fianco Jacopo Giliberto racconta invece lo stop che il Consiglio di Stato ha fatto accogliendo il ricorso di Greenpeace, Italia Nostra e WWF per fermare un progetto dell'Enel che voleva sostituire con una centrale moderna a carbone da 2,5 miliardi di euro l'attuale vecchia centrale elettrica a olio combustibile di Isola Serafini, la centrale di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Nuovo stop al carbone di Porto Tolle viene dal Consiglio di Stato, c'è lo stupore dell'Enel che sul progetto lavora da 5 anni con un iter che sembra non finire mai, una spesa già fatta tra i 20 e i 30 milioni di euro per campionamenti e studi di ingegneria, un anno e mezzo di percorso già fermato, gare per le prime forniture da 1,8 miliardi di dollari e decine di aziende, circa 400 che vedono dissiparsi tra le dita il contratto. Insomma, due storie purtroppo italiane che Alberto Rioli nel suo editoriale di prima pagina riassume così: le vittorie di Pirro del partito del non sviluppo, dall'IKEA di Pisa alla centrale di Porto Tolle. Questo è il commento di Alberto Rioli, dicendo: ecco il motivo per cui in Germania crescono a una crescita molto molto più ampia rispetto e più rapida rispetto all'Italia, perché non si bloccano tutti questi progetti. Che dire, siamo in rapida chiusura. Voglio segnalare che cosa? Beh, Schwarzenegger, che si è separato dalla moglie dopo 25 anni, da Maria Shriver, un matrimonio con 5 figli, eccetera, Sapete perché Schwarzenegger si è separato dalla moglie? Perché Schwarzi confessa: 10 anni fa ho avuto un figlio dalla nostra cameriera. Una vicenda che ha terremotato letteralmente il matrimonio di Terminator. La missione all'origine della rottura con Maria ha fatto un comunicato dicendo: capisco, merito i sentimenti di delusione e rabbia tra i miei amici, la mia famiglia, non ci sono scuse, mi assumo la piena responsabilità per il dolore che ho causato, chiedo perdono a Maria, la moglie, ai figli, alla famiglia, sono davvero dispiaciuto. Beh, questa cameriera conferma tutto, dice: 10 anni fa ho ricevuto liquidazione, TFR, sono andato via volontariamente, ho mantenuto buoni rapporti con entrambi, però certo è tutto vero. È incredibile, insomma, ora i giornali americani di gossip si chiedono: ma come ha fatto Maria Shriver a non accorgersi che Schwarzenegger andava a letto con la cameriera e ci ha fatto pure un figlio? Insomma, sta di fatto che il motivo della separazione è questo. Va bene, ci fermiamo con la rassegna stampa, ora il giornale radio e poi subito dopo rientriamo in diretta.